Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Lo capisci perché solo in quel preciso attimo inizi a riavvolgere il nastro di tutte le emozioni provate in 13 ore, 49 minuti e 17 secondi. Il mio tempo finale, dopo più di 63 km e 3600 metri di dislivello positivo. Ciao, sono Gianluca, ho 36 anni e sono di Lecco. Sono sposato, faccio il programmatore e adesso però è l'amore della mia vita, ha 14 mesi e si chiama Carola. Quando arrivano storie come quelle di Gianluca, ce le leggiamo e poi prepariamo la puntata, a me vengono in mente sempre due cose. La prima cosa è tutte le volte in cui nella nostra vita, nella mia vita, parlo per me, è sempre meglio, tutte le volte in cui nella mia vita ho detto a me stesso e soprattutto a qualcun altro, basta, non ce la faccio più, guarda, veramente così non si può andare. Quante volte l'avete detto? Solo oggi, quante volte avete usato questa frase? O l'avete sentita dire? No ragazzi, così non si può andare avanti, no, adesso basta, cioè veramente oltre a questa non si può andare, così non ce la faccio più. Mi vengono in mente tutte le volte in cui ho detto questa frase o l'ho pensata, e poi di conseguenza mi viene in mente una vecchia pagina di diario che scrissi qualche anno fa, che partì proprio a raccontare la stessa cosa che racconta Gianluca nella sua storia e che racconta molte altre storie che ci sono arrivate di questo genere, che parlano di corsa, di gare in realtà, anche se questa non è una maratona, è una cosa di più di una maratona. Comunque mi viene in mente quel diario là, quello in cui raccontai di quando cominciai a correre, quando lo facevo con una certa regolarità, e soprattutto mi viene in mente quello che scoprì attraverso quella storia e quella sorta di disciplina, cioè il secondo fiato. Che cos'è il secondo fiato? Il secondo fiato è quella cosa lì che nella corsa o nella vita arrivi a un certo punto in cui dici no, non ce la faccio più, mi devo fermare. E invece non è vero, ce n'è ancora. Sono le 16:10, questa è Radio 24, buongiorno a tutti. Voi siete qui, è il programma che state ascoltando, che è in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, e che racconta una storia al giorno. Voi siete qui, @radio24.it, siete ancora e sempre in tempo, se avete voglia di mettervi lì, buttare giù in una pagina un episodio della vostra vita. Un episodio che racconti in qualche modo qualcosa di come siete, del perché siete così, di come eravate quando eravate bambini e quindi in qualche modo di come siete ancora oggi. Ripeto, voi siete qui, @radio24.it. Altrimenti, se avete un cellulare in mano e volete in diretta raccontarmi qualcosa riguardo al secondo fiato, cioè qualcosa riguardo al fatto che siete arrivati a un certo punto nella vostra vita in cui veramente avete detto non ce la faccio più, adesso la chiudo, la finisco, qualunque cosa fosse, amore, lavoro o altro, non c'è mica solo quello, e invece avete rotto il fiato, avete scoperto che ce ne avevate ancora per andare avanti ed è stato un bene e siete andati avanti a farlo. 349 238 6666, altrimenti quello per gli sms, altrimenti se avete un computer davanti siete collegati, il profilo Facebook del programma è Voi Siete Qui Radio 24. La storia di Gianluca appunto è una storia che riguarda una corsa, ma come quasi tutte le storie non parla mai solo di quell'argomento lì, parla d'altro, parla di un viaggio che fa dentro di sé, come lui racconta, e ci dà il destro poi per parlare d'altro. Nella seconda parte, dopo la borsa, ho chiesto di essere presente solo telefonicamente purtroppo a una persona che già questo programma conosce e che io ho avuto la fortuna di conoscere un po' meglio dopo averlo chiamato qui in radio, che è Alex Bellini, che ve lo ricordate quello che ha attraversato l'Oceano Pacifico a remi? Ecco, non ha fatto solo quella, ne ha fatte anche altre che hanno a che fare con la corsa. Quello più tardi, perché adesso è la storia di Gianluca. Continuo a guardare il mio GPS e quest'ultimo chilometro mi sembra lungo, troppo lungo. Continuo a salire. Ormai non sento più i dolori alle gambe che mi hanno accompagnato nelle ultime 6 ore. Sento solo il ritmo del mio respiro e vedo la nuvoletta di vapore che esce dalla mia bocca, magnificata dalla luce della frontale. Sono solo in mezzo a un bosco. In quel momento era il 62esimo chilometro, quasi 63, e stavo facendo l'ultima salita ed ero proprio al limite della fatica. E non vedevo l'ora di arrivare proprio alla fine perché non ne avevo davvero più. Anzi no, non sono solo. So con certezza che qualche animale è lì di fianco a guardarmi, ad osservare i continui movimenti delle mie braccia che mandano avanti i bastoncini di qualche metro, alla ricerca di una spinta. A un tratto scorgo il campanile di Pogno. Eccolo. Dalla mia bocca, oltre alla nuvoletta, esce un'esclamazione che un luogo sacro di sicuro non merita. Ecco il campanile, dico al netto delle parolacce. E lì capisco che manca davvero poco. Sotto i miei piedi il sentiero finisce e inizia l'asfalto. Un brivido mi percorre la schiena e so che non è il freddo. Ultima corsa, ultima curva, ultimi volontari che mi indicano la direzione. Io rido, come ho fatto da quando ho iniziato a leggere 50 alla voce distanza in chilometri di quel GPS che adesso non guardo più come prima. Stranamente raggiungo due corridori negli ultimi metri, ma decido di non superarli perché anche loro sono stati importanti per me questa sera. Rallento. Ho deciso di godermi questi ultimi metri. Voglio tagliare il traguardo in solitaria. Il brivido si fa più forte, sento il magone montare dallo stomaco. Gli occhi mi si inumidiscono sempre di più, mi si riempiono di lacrime. Solo in questo preciso momento realizzo che sto per concludere qualcosa di pazzesco. Qualcosa che qualche anno prima reputavo soltanto follia. Qualcosa che 30 km prima sembrava sfumare. E invece sono lì. Ultimi metri. Sento il beep del chip che ho sistemato nella linguetta delle scarpe. È finita. Urlo di gioia, alzo i bastoncini. L'applauso degli atleti ancora presenti all'arrivo è fragoroso. Faccio ancora due passi e mi siedo su una panchina stremato. Qualcuno si avvicina per complimentarsi. È un signore che non conosco, che mi inquadra con il suo smartphone e scatta una foto. Io continuo a ridere e a ringraziare. A un tratto faccio un'altra stupenda scoperta. In quell'istante capisci di avere fatto un viaggio dentro te stesso, oltre che sui sentieri. Lo capisci perché solo in quel preciso attimo inizi a riavvolgere il nastro di tutte le emozioni provate in 13 ore 49 minuti e 17 secondi. Il mio tempo finale dopo più di 63 km, 3600 metri di dislivello positivo. Quasi 7 ore dopo il primo in classifica, ma questi sono solo dettagli secondari. Chi me lo fa fare è la domanda che mi faccio durante il percorso, ecco. Però la risposta me la do sempre all'arrivo, quando taglio il traguardo e provo un'emozione indescrivibile. Ti passa davanti agli occhi il momento della partenza con Mila al mio fianco e Carola in braccio, oppure il passaggio mozzafiato alla Madonna del Sasso, oppure la scoperta al 14° chilometro di aver perso le cuffiette per ascoltare musica e distrarmi un po'. È come non ricordarsi della crisi, spaventosa, quasi letale, del chilometro numero 27,5, quando davanti ai miei piedi si è presentato un muro di 400 metri di dislivello in poco più di un chilometro, anziché la discesa che mi ero immaginato nella mia testa. Ecco sì, lì ho davvero barcollato e lo ammetto, lì ho pensato al ritiro. Per tutta la salita ho cercato di pensare, ecco, arrivo al prossimo ristoro e mi ritiro. Ho immaginato tutte le scuse che mi sarei inventato per giustificare il fallimento. Poi ho trovato alcuni compagni di viaggio che, come Caronte, mi hanno traghettato poco a poco verso il traguardo. Luca 51, Luca Patella Tibiale, Annalisa la Marchigiana, Roby 58, Claudio chiedi a quello davanti come si chiama perché non lo so, insomma, nomi e soprannomi di tutti quelli che hanno fatto il mio stesso viaggio. E sono sicuro che anche per loro è stato un viaggio intimo, incredibile e unico. Ogni volta che mi arrivano storie che parlano di corsa, come vi dicevo prima, io non riesco a non tirare fuori questa vecchia pagina di diario. Corro tutti i giorni ininterrottamente da quasi 6 mesi. Non corro la mattina presto, come fanno le persone che hanno un lavoro regolare, no. Il mio orario oscilla tra le 11 del mattino e le 2 del pomeriggio in inverno, mentre in estate corro tra le 18 e le 21. Prima è impossibile per via del caldo, dopo lo diventa per le zanzare. Corro per un'ora, a volte un po' di più, a volte un po' di meno. Ho iniziato a correre per combattere il mal di testa. Soprattutto il mal di testa della domenica, quello che ti prende appena sveglio e non ti passa più. Sembra fatto apposta per riempire il vuoto di quella giornata lì. Di solito il piccolo raggiunge verso le 5 del pomeriggio, nel mezzo della digestione del pranzo. Poi sembra diminuire, e invece verso le 8 di sera riprende corpo e il cervello inizia a pulsare. Ho iniziato a correre perché mi sembrava che respirare un po' d'aria fresca potesse alleviare il dolore alla testa, però non mi andava di camminare nel parco come uno che porta a spasso un cane senza avere un cane all'epoca. E quindi mi sono infilato una tuta e sono uscito. Fino ad allora l'emicrania la combattevo con un Aulin. Quando quello ha smesso di funzionare sono passato a due. Poi hanno smesso di fare effetto e ho deciso di provare a stancarmi. La prima corsa è durata non credo più di 15 minuti. Davanti a casa mia c'è un pezzo di verde e una pista che gira intorno a dei palazzi costruiti di recente. Quando sono arrivato a metà del percorso mi sono fermato, convinto che stesse per venirmi un ictus. La testa mi faceva più male di prima, ma il dolore era diverso. Sembrava un dolore vivo, come se il mio cervello fosse una bestia strana che ansimava. Ho camminato fino a casa, non ero nemmeno sudato, ma ansimavo come un Labrador. Sono entrato e il caldo dell'appartamento mi ha stordito. Mi sono seduto sul divano che non mi era mai sembrato così morbido e lentamente i muscoli hanno cominciato a rilassarsi e il mal di testa a sparire. In quel momento ho capito che quella cosa avrei dovuto ripeterla tutti i giorni. Durante quei 60 minuti ci sono diversi momenti in cui vorrei mollare. Penso, che so, che in casa fa caldo, che mi potrei fare una doccia e poi sdraiarmi sul letto e addormentarmi. Semplicemente non bisogna pensarci. Pur sapendo che il momento della crisi arriverà, bisogna distogliere il pensiero. I primi giorni la crisi arrivava presto, sembrava definitiva. Inizialmente ero disperato. Credevo di non avere più fiato, di non avere più il fisico, che all'età di 34 anni il mio corpo avesse già iniziato il suo declino. È stato allora che fortunatamente ho sentito parlare del secondo fiato. Il secondo fiato è un'improvvisa transizione da una sensazione di fatica che si avverte durante la prima parte di un esercizio a quella più confortevole che arriva più tardi. Il secondo fiato è un concetto che ho cominciato ad applicare a diverse attività, non solo alla corsa. Al lavoro, ad esempio, ma anche alla lettura o ai rapporti umani, che siano d'amore, d'amicizia. È un po' come concedere una seconda possibilità a se stessi. Un modo per sapere che, anche se sembra che non ce la fai più, forse non è vero. Forse ce n'è ancora. In fondo, da qualche parte. E quando succede, cioè quando effettivamente poi ce n'è ancora, la sensazione è meravigliosa, perché senti che ce la stai facendo. E ti senti bene, anzi, ti senti addirittura meglio di prima e pensi che potresti continuare ancora e ancora. Chemicals will hit you. Chemicals will knock you down. Is it over 'cause you feel no pain throwing me around? You are no Il secondo fiato è quella cosa che ti fa andare avanti anche quando ti sembra di avere finito la benzina o la forza. Alberto mi scrive: adesso basta, dicemmo, un figlio è il massimo, non possiamo averne altri. Dopo qualche anno, nuova gravidanza, due gemelli e tanta gioia. 349-238-6666, Andrea 65, che sembra un account, Andrea 65 chiocciola qualcosa. Lavoro per una banca che fa pagare a noi dipendenti le sue colpe passate. Ciò nonostante ho ancora fiato perché credo in questa banca. Andrea, guarda, ti va bene che non sono Barisone, altrimenti ti avrebbe detto di mollarla immediatamente, probabilmente, quella banca. Bella questa canzone di chi è? Dipende da quale, probabilmente era la prima. Sono gli Shearwaters, il titolo di quel brano lì era Roots. Rooks. Comunque fate una cosa, andate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui, lo ripeto ogni tanto, ci sono tutte le canzoni che mandiamo, ci sono proprio i tre brani che mandiamo quotidianamente, c'è il nome del brano, il nome di chi la canta e se ci cliccate sopra vi parte immediatamente un video su YouTube. 349-238-6666, tutto perché Gianluca ha fatto una corsa che è durata per l'esattezza, adesso ve la ripeto, poi gliela chiediamo a lui, 13 ore, 49 minuti e 17 secondi. Pronto Gianluca? Ciao Matteo. Come stai? Bene, grazie, tu? Io benone. Dove ti trovi adesso? Adesso sono in ufficio, mi sono appartato un attimo e... Per questo che hai questo tono di voce un po' pacato, che no, è il tono che si usa al telefono quando non si vuole. No, è una telefonata normale, guarda, sto parlando con mia mamma. No, avvisati, colleghi avvisati, tutti avvisati. Ecco. Che lavoro fai, Gianluca, me lo ricordi? Faccio programmatore. Ma i programmatori, perché questa è una di quelle categorie, che cosa esattamente programmano? Non rispondermi il computer perché altrimenti metto giù. No, sono software gestionali per qualsiasi ditta che vuole informatizzare i propri sistemi. Magnifico, guarda, mi hai dato una risposta, ci avevo capito di più prima, però in sostanza la tua giornata tu la passi davanti a un computer, quello vabbè, capita praticamente all'80% delle persone, ma che cosa hai davanti, dei numeri, delle parole, dei codici? Ma tutto, numeri, parole, codice, omissioni, linguaggi, database, un po', telefono, skill, rispondi. Un lavoro davanti al computer. Gianluca, veniamo invece alla parte meno sedentaria della tua vita, che è la corsa, direi, visto che ci hai raccontato di questa gara. Ci ricordi esattamente che tipo di gara è, dov'era, quando l'hai fatta, insomma i dettagli proprio? Allora, 20 ottobre a Pogno, a provincia di Novara, era l'Ultra 3 del Lago d'Orta, che si sviluppò a 63 chilometri e su un dislivello, come hai detto tu prima, di 3600 metri di dislivello positivo. Dislivello positivo vuol dire che mettendolo tutto insieme le salite hai fatto 3600 metri di salita? Sì, sommando tutte le salite, sì. Perché si chiama Ultra Trail? Che differenza c'è tra una maratona, a parte la lunghezza? Perché tutte le gare che superano i 42 chilometri e 195 metri vengono definite ultra. Anche se uno organizza una gara di 43 chilometri, è un ultramaratona. Cioè, è una specie di maratona per supereroi, tipo la supermaratona, quella roba lì. La super ultra gara. Ho fatto una garona, ho fatto un ultramaratona. Sono tutto fuorché un supereroe, ecco, quello si voglio precisare subito. Sono una persona normalissima. Che tipo di allenamento hai fatto per fare questa gara? Ma stavo in giro tanto in montagna, partivo la mattina presto, 3, 4, 5, 6, 7 ore, poi rientravo in casa, poi riuscivo il giorno dopo, in pausa pranzo. Ma scusami, ma di cammino o di corsa? Ma io in salita non riesco ancora a correre, perché ancora peso un po' troppo, però in discesa, in pianura, cerco di correre per abbreviare il tempo della gara. Gianluca, invece, questa è la domanda ovviamente che faccio a tutti quelli che fanno questo tipo di attività, cioè, com'è che hai cominciato? Perché hai cominciato a fare? Quando hai iniziato in sostanza? Ho iniziato 3 anni fa, proprio quando ho iniziato a lavorare dove sono adesso. Ok. Anche perché l'ambiente era con uno dei due capi che fa l'Ironman, quindi spingeva a fare questo tipo di attività. Iniziato cioè, con una... mi ricorda veramente molto, andiamo a fare il giro dei 7 colli, sembra il pezzo che il capo va in bicicletta, quindi tutti vanno in bicicletta. No, diciamo che mi ha spinto, ecco, a fare questo. Ho iniziato con una mezza maratona, con una maratona, adesso corro in montagna, ecco, che mi piace, anche il luogo dove mi trovo, che è Lecco, diciamo che aiuta. Ecco. Ma quindi tu hai per fare sta gara sei partito a che ora e a che ora sei arrivato? Siamo partiti alle 9:30 e sono arrivato attorno alle 23:45 in piena notte. Non ti fermi mai, ovviamente, in 13 ore, sì, immagino. Sì, ai ristori, quando sono stanco, davanti al muro, mi sono fermato, ho pensato, cioè... Quando è che hai proprio pensato, adesso basta, mi fermo, non ce la faccio più? E lì. E appena iniziato con la salita ho detto no, basta, non ce la faccio più. E cos'è successo invece? Ma dovevo arrivare per forza al ristoro successivo per potermi ritirare, però mentre camminavo ho incontrato alcune persone che, come dicevo nella storia, sì, ci siamo fatte compagnia, ecco, e siamo arrivati in fondo. Che alla fine, è un pochettino una metafora della vita. Se incontri qualcuno che ti fa compagnia, arrivi fino in fondo. Da solo è sempre più dura. Gianluca, grazie mille. Grazie a te, Matteo. Ciao, in bocca al lupo. Crepi, ciao, grazie. Voi siete qui. È o il momento dell'arrivo o il momento della partenza, la foto che ci ha mandato Gianluca, ma è ovviamente quello dell'arrivo, lo si capisce dalla sua faccia e da quello che c'è intorno, perché alle sue spalle ha il percorso, la parte finale del percorso, quello che ha delle transenne, degli sponsor e addirittura dei lumini accesi, perché è notte, che segnano la strada. Lui invece è illuminato dalle luci di un gazebo, perché si vede la tipica struttura del gazebo sopra di lui, è chiuso, insomma, è riparato. c'è una scrivania accanto, insomma, persone quindi che fanno calcoli di tempo, immagino. Lui ha addosso una tutina blu, devo dire Gianluca, abbastanza inguardabile questa tutina che è addosso. So che non conta all'arrivo delle ultramaratone, dell'ultra trail, quello che è, però la tutina è abbastanza inguardabile, ma chi se ne frega, ha in mano le racchette e cerca di sorridere, ma in realtà è una smorfia di uno che veramente non ce la fa più. Ultra, primo elemento di composti formati modernamente, nei quali indica la presenza di una qualità o condizione in termini che superano la norma, talvolta nel linguaggio pubblicitario. Etimo dal latino ultra, oltre. Sul profilo Twitter del programma arrivano dei messaggi di persone che corrono o che hanno rotto il fiato in qualche modo. Federico mi scrive: sono ultramaratoneta. Nel 2010 ho corso in gara 400 km in 8 giorni di fila. E uno dice: vabbè, è già questo. Punto. Nei 140 caratteri del tweet ci sta ancora. Il giorno dopo a casa sono andato a correre. 349-238-6666. Ho assistito mia moglie. Questo non c'è. È un po' un messaggio fuori contesto questo, però mi diverte. Ho assistito mia moglie durante il parto. La aiutavo nella respirazione. Iperventilazione, capogiri e svenimento. Che figuraccia. E questo solo nell'aiutare la respirazione, mi sembra di capire. Marco da Cesena scrive: il mio amico Oliver corre maratone oltre i 150 km nel deserto. Sarebbe bello sentire la sua esperienza. Sì, Marco, sarebbe bello. Magari adesso è tardi, probabilmente, però la prossima volta trovo un modo per metterci in contatto con lui. Ebbene, vi ricordate cos'era? Era prima di Natale ancora. Avevo raccontato la storia di questo individuo che aveva deciso un giorno, non un giorno qualunque, di prendere i remi, una barca remi, cabinata con una cabina, però comunque una barca remi. E aveva deciso di attraversare prima l'Oceano Atlantico e poi l'Oceano Pacifico a remi, e l'aveva fatto in 8 mesi uno, mi pare, in 10 mesi l'altro. L'avevo invitato in radio e lui era venuto molto gentilmente. Poi ci siamo conosciuti meglio e poi mi ha raccontato un'altra storia. Immaginate di passare un'estate intera correndo, cioè immaginate di partire il 19 giugno del 2011 in questo caso e di arrivare 70 giorni dopo, quindi attorno al 20 di agosto, partire da Los Angeles e arrivare a New York, tutta un'estate di corsa. Lui è Alex Bellini. Pronto Alex? Eccoci. Ciao. Buongiorno. Come stai? Molto bene, grazie, molto bene. Si sente questa breve pausa, questo ritorno audio, perché tu Alex da qualche tempo vivi in Inghilterra, giusto? Mi dici, mi ricordi esattamente dove sei? Vivo a Oxford, però sono vicinissimo, non sono a Timbuktu, quindi diciamo che la pausa tra la mia e la tua voce non è giustificata. No, direi che o sono i nostri telefoni o è il tuo, i casi sono due. Esatto. Però parliamo di quest'altra cosa, come si chiama la corsa che hai fatto? Perché è una corsa, giusto, la Los Angeles New York? Sì, si chiamava, ogni anno poi assume un nome nuovo, dipende poi da chi la organizza, però all'epoca era Los Angeles New York Foot Race. Ok, tu sei partito il 19 di giugno del 2011 e sei arrivato che giorno esattamente? Il 21 agosto del sempre del 2011. Tu sì. Qui mi racconti come si corre una gara di questo tipo, cioè a che ora, la giornata tipo durante una gara di 2 mesi e mezzo, come si svolge? La giornata tipo è veramente una giornata da guerrieri. Ci si svegliava molto presto la notte, verso le 2:30 di notte, per fare un'abbondante colazione. Si aveva il tempo poi di smaltire, quindi un po' di una gestione, e alle 5 si cominciava a correre. E si correva fino a che uno terminava la tappa della giornata. Ah, perché erano delle tappe precise, quindi non correvi fino a dove ce ne, fino a quando ne avevi. In realtà era una fortuna avere delle tappe, perché spesso personalmente non sarei riuscito a concludere la tappa del giorno se non avessi avuto un traguardo fissato. Certo. Le distanze andavano dai 60 km fino ai 110 km, talvolta quando eri a 90 km con 50 gradi al sole dicevo: boh, va bene così, oggi mi fermo qua. Invece, proprio per la ragione, la ragione stessa che ci fosse tutti i giorni un traguardo, eri costretto ad arrivare al traguardo tutti i giorni, pena la squalifica. Ed era tutti i giorni, non c'è sabato, non c'è domenica, si corre tutti i giorni? correva tutti i giorni, non c'erano feste, non c'erano riposi. Talvolta sembra paradossale, quasi a credere, però talvolta non avere un riposo è quello che veramente ti salva, perché il giorno in cui ti riposi è il giorno in cui fai calare la tensione, in cui i muscoli si rilassano, non sei più pronto a, con tenace, con resistenza ad andare avanti. Invece sai che parti e tieni la testa bassa fino al giorno in cui arrivo, proprio come se quando sì, sei sì, in guerra, chiaro, no? Che non ci si riposa mai. Scusami Alex, questa era una gara, quindi quanti partecipanti eravate? In quanti eravate? Eravamo 18 concorrenti. E siete arrivati? Concorrenti da partenza, siamo arrivati in 8. Riuscivate a stare insieme durante la corsa? No, ognuno andava con i propri ritmi? Diciamo che ognuno seguiva il proprio ritmo. In un'intera giornata potevi raggiungere e potevi farti raggiungere dalla stessa persona 4 volte, perché magari uno aveva una tecnica di corsa che privilegiava le prime ore della mattina, altri come me preferivo partire piano camminando per qualche chilometro e poi finire in progressione, quindi certo, facevo prima raggiungere e poi raggiungevo io a mia volta. Difficilmente si correva assieme, però quando si creavano delle sinergie con qualche altra persona era straordinario, perché proprio si formava questa energia dove la somma delle energie apportate da noi era ben aumentava superiore alle singole. Certo. No? Esatto. Alex, questa tra l'altro è una delle cose delle poche cose che tu hai fatto insieme ad altre persone, perché i tuoi progetti sono quasi sempre solitari, e vorrei andare qui perché abbiamo un paio di minuti. È vero che tu, come mi raccontavi, vuoi andare alla deriva su un iceberg per 10 mesi? Fa ridere? mi racconti questo progetto in un minuto? Beh, pochissime parole servono. Nel 2015, sono ormai un anno abbondante che stiamo lavorando, un progetto che ha scopo scientifico, ossia portare delle nuove ricerche, delle nuove sperimentazioni sul grande e variegato mondo del riscaldamento globale. Quindi attraverso la mia esperienza, che consisterà nel sopravvivere su un iceberg fino al suo completo scioglimento, documenteremo in presa diretta questa ultima fase dell'iceberg che lo destinerà a tornare nuovamente acqua. E sarà un parallelo, perché sarà come così come l'essere umano va alla deriva sul suo proprio pianeta, allo stesso modo io andrò alla deriva sul mio piccolo pezzo di ghiaccio. Io, Alex, riesco ad immaginarmi un momento in cui tutti lì in attesa che l'iceberg si stacchi, tu fai un saltello, ci sali sopra e poi ci vediamo tra 10 mesi dall'altra parte. Io ti ringrazio, Alex Bellini. Ricordo che Alex Bellini è quello che ha detto questa frase: credo che ognuno di noi potrebbe attraversare un oceano a remi, a due sole condizioni però: avere un buon motivo per farlo e non smettere mai di crederci. Alex, grazie ancora e ci sentiamo presto. A prestissimo. Ciao, guarda, buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Grazie ancora a lui, grazie a tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata, che sono Filippo Aureggi, Tiziano Bonini, Margherita Ina. Grazie soprattutto però a Gianluca, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Marco, vengo da Cagliari e la storia di domani è la mia. Parla di un anno bisestile. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui.